as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci qua, siamo di nuovo ad Il Pane e le Rose, trasmissione che parla di lavoro, di operai metalmeccanici, 103.1 Radio Città Fucico, radio indipendente di Bologna. Il Pane e le Rose chiede a tutti gli ascoltatori di sostenere Radio Città Fucico, perché è tra le poche radio a Bologna in cui si toccano temi importanti. Si parla di società, di lavoro, scuola, carcere, di cultura, arte, insomma, potete ascoltare tutto da noi. Oggi una puntata dedicata all'internazionalismo. Noi come lavoratori sosteniamo l'internazionalismo operaio, siamo sempre a fianco di tutti i sindacati, tutti i lavoratori che lottano, e in questo momento è purtroppo da tanto che in Iran c'è una rivoluzione, c'è una rivoluzione in atto che chiaramente i mass media non ne parlano più. C'è stato un periodo in cui se ne parlava spesso, però chiaramente la guerra in Ucraina sta quasi completamente oscurando tutto quello che sta accadendo. Non si parla assolutamente del Perù, ma anche in altri posti in cui i lavoratori stanno scendendo in piazza e stanno veramente protestando. In Iran ci sono forti proteste, come voi avete letto in questi giornali, anche Radio Fucico ne ha parlato spesso, e noi abbiamo incontrato una compagna che si occupa da anni della repressione in Iran, Soila Harimand, chiedo scusa per la pronuncia, al congresso della CGIL. L'abbiamo incontrata, abbiamo approfittato della sua presenza per fargli un'intervista, per chiedergli insomma come sta andando in Iran e parlare con lei della situazione in Iran, ma anche in Italia, di quello che accade in Italia. Ora io vi lascio ad una canzone che è una delle canzoni di protesta che in questi mesi in Iran nelle piazze cantano le donne e gli uomini, le lavoratrici e i lavoratori che stanno protestando, ed è la nostra canzone Bella Ciao, perché vorrei far capire a tutti i compagni che in Iran non c'è una rivoluzione per portare al potere gli americani, no? Non è una rivoluzione arancione. Nell'intervista si capisce. Ecco, io vi lascio Bella Ciao in versione iraniana, cantato da una manifestante iraniana, e poi ci sentiamo per l'intervista. Ciao a tutti e poi per le conclusioni. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, می پریم از خواب یه شب مهتاب، یکی میگه آی آدم ها، یا همه با هم یا همه تنها، ما که بیداریم تا فردا، خاک این گندم تو خیابونه، خوشه ی خشم من و تو تشنه ی بارون. حق ما کم نیست، زانوی غم نیست، قلب ما که دور از هم نیست. دنیای تاره این یه آغازه، پنجره تا رویا بازه. از گلوی تو تا صدای ما، بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، میپریم از خواب یه شب مهتاب، یکی میگه آی آدم ها، یا همه با هم یا همه تنها، ما که بیداریم تا فردا. Allora siamo sempre qui alla congresso sempre di Cervi della CGIL, e abbiamo la fortuna di avere con noi una compagna iraniana. Se si presenterà e ci parlerà insomma di quello che accade in Iran. Noi più volte nella nostra trasmissione, ma anche in radio, abbiamo raccontato purtroppo il dramma del popolo iraniano, che purtroppo viene messo un po', adesso ci spiegherà anche lei, un po' non se ne parla più tanto, no? La guerra in Ucraina è al primo posto, poi si parla di tutt'altro, e purtroppo oggi però in Iran, adesso lei ci racconterà, la situazione è sempre più grave. Buonasera, mi chiamo Soheila, sono un'attivista dei diritti umani da tantissimi anni, vivo a Bologna, ormai siamo 43 anni da Bologna. Queste situazioni che vedete voi adesso in Iran, per me personalmente non è una novità. Una cosa che loro hanno cominciato subito dai primi di anni 80, hanno iniziato dei gran massacri, hanno ammazzato migliaia di ragazzi, migliaia di famiglie distrutte, però la notizia non è mai uscita, è stata sempre zitta. È stata anche un'altra volta, anni fa, che è stata uccisa solo una ragazza, Neda, che hanno parlato un po'. Poi c'è stata nel 2019 una protesta grandissima per caro benzina, iniziato, è sempre stata una donna anche lì a iniziarlo. Lì hanno fatto veramente massacrato questi ragazzi, hanno staccato internet, le notizie non venivano fuori, sono stati ammazzati quelli riconosciuti, quelli dichiarati da loro, poi chissà quanti sono di più, 1500, tantissimi arresti, che tanti di quelli già hanno avuto la pena di morte. E poi arriviamo così gli ultimi 5 mesi, che è iniziato con quella ragazza curda, perché non avevo portato il velo come volevano loro, che non era prima caso. E una che è stata una giornalista a seguirlo, che questa giornalista settimana scorsa gli hanno dato 10 anni di carcere. È scoppiata la rabbia, perché la gente è piena, la piena, cioè un paese così ricco, non è che non c'è solo la libertà, sta diventando un paese povero, la povertà è aumentata 31%, libertà non c'è, libertà per parole non c'è, libertà per camminare non c'è, libertà per amore non c'è, loro solo minacce, paura e carceri sono in Iran piene dei giovani, piene dei prigionieri politici, da qualsiasi ramo del lavoro che volete pensare. E queste proteste continuano, però all'inizio hanno parlato tantissimo, adesso stanno parlando pochissimo. Noi come iraniani anche un po' delusione ti viene, perché la guerra è una cosa bruttissima. Io lo dico sempre, mi scuso da un'iraniana, che un regime sotto nome Iran ha combinato questo guaio. È una lata della Russia, accentra tantissimo con la guerra con l'Ucraina, è brutto veramente. E poi anche dall'Ucraina lo sappiamo benissimo, quelli che dovevano uscire non sono usciti. E questi che hanno fatto per l'Ucraina non hanno fatto per l'Iran. Non hanno fatto per l'Iran. E ti viene un attimo da pensare, che differenza può essere la differenza tra Ucraina e Iran? Allora ti viene il pensiero Iran, perché è pieno di risorse, Iran pieno di contratti economici per questi paesi, ma la vita umana è uguale. Per 2 mesi non hanno parlato che sono stati ammazzati 73 bambini, non hanno detto anche di questo. Oltre tantissimi giovani, oltre che carcere sono pieni, loro dicono 20.000, però sarà più di 20.000, in qualsiasi grado, quanti ragazzi che hanno ucciso? Hanno ucciso questi ragazzi indifesi, molto pacifici, chiedevano solo la libertà con le mani vuote, e loro sparavano. Il colpo sicuro che l'hanno ammazzato tanti. E poi un'altra cosa che lo facevano alle ragazze, sparavano e sparano ancora negli occhi, nei organi genitali delle donne. Ecco, di queste cose qui non si parla. Noi vogliamo che i giornali e i telegiornali parlassero in continuazione, come stanno facendo per l'Ucraina, lo facessero anche per l'Iran, per non fare questa fine, che questa fine succederà se non intervengono. Se non intervengono, succederà. Questa volta Europa canta tantissimo. Noi vogliamo che Pastaran, sanno tutti che sono dei terroristi, tutti i terroristi del mondo, quelli della Siria, quelli di Palestina, quelli del Libano, quelli di Yemen, quelli di Somalia, vengono contribuiti dal regime iraniano. Che il regime iraniano ha il piede Pastaran. Sono dei terroristi, perché non vogliono riconoscerli? Perché se riconoscono Pastaran, terroristi, c'è un passo avanti per il popolo. Il popolo non lo vuole più questo regime. Io questo che sto ripetendo in continuazione, che la gente non lo vuole più. Tu hai chiesto anche delle sanzioni economiche, hai chiesto oggi. Sì, sono sanzioni economiche, non come ha fatto gli Stati Uniti e tutto il paese, che la vita è diventata difficile. Adesso stanno facendo delle sanzioni private. Sì. Che va direttamente verso questa persona qua. Dunque tu non chiedi sanzioni economiche sul modello, insomma, con la Russia, ma altri tipi di sanzioni che colpiscono? Altri tipi di sanzioni su tutti quelli che stanno con governo, sì, che hanno derubato questo paese, hanno conti bancari tremendi, hanno figli, tutti hanno delle bellissime vite all'estero, invece la gente lì sta morendo di fame. E un paese come l'Iran, 31% di povertà, cioè morte di fame, è una vergogna. Quello che ti volevo chiedere, tu sai che noi il Paniere Rose ci occupiamo di lavoratori, ma quello che ci interessa, certamente quello che tu ci stai raccontando a noi ci colpisce tantissimo, la Lucia Fucico ne parla spesso, siamo tra quelli che comunque cerchiamo di non far finta di nulla assolutamente. I lavoratori iraniani, perché questo indice di povertà, questa crisi che è iniziato anche prima della pandemia, no? Ma la pandemia l'ha accentuato tutto questo. Cosa ci puoi raccontare di quello che accade, del ruolo dei sindacati in questa battaglia? E fate una domanda, una categoria che ci tengo tantissimo. Purtroppo non è, anche prima di pandemia, da anni questi lavoratori soffrono. Appena si lamentano, fanno un sciopero, finiscono in carcere. In carcere adesso sono pieni di sindacalisti, pieni di lavoratori. Loro non, addirittura un'azienda settimana scorsa che hanno fatto sciopero, sono 2 anni che non vengono pagati. Non c'è nessun diritto. Io chiedo dai sindacati italiani, perché io, come ho detto anche prima, io vivo in Italia, io chiedo dall'Italia. Intervenite almeno su questa categoria qua. Non hanno nessuna sicurezza, non hanno stipendio e non possono fare una cosa che state facendo voi oggi. Sì, se lo fanno, finiscono in carcere. Non si possono organizzare. No, fino adesso tanti di loro hanno già avuto anche la pena di morte. Che lavoratori. Anche gli ultimi 4 ragazzi che sono stati impiccati, questi 4 ragazzi erano 4 poveri lavoratori, povera gente. Sì, perché questa protesta è per i diritti, perché tu hai parlato chiaro, lavoro, libertà e diritti, no? Sì, libertà. La donna? Allora, diritto della donna che non venga calpestata. Addirittura prima avevamo polizia morale, certo. Adesso sono già 2 giorni, hanno messo un'altra legge, c'è un altro controllo di più. Cioè dovevano toglierla, alla fine hanno messo un altro. Hanno messo un altro anche. Noi chiediamo la libertà, prima di tutto. Quando c'è la libertà arriva anche l'altro, però se non c'è la libertà... Tu dici se non c'è libertà nemmeno di poter manifestare, scioperare, di poter ballare, perché 2 ragazze che hanno ballato, hai raccontato, sono finiti 10 anni di carcere per aver fatto un ballo in piazza. Se non c'è libertà nemmeno di ballare, non si può nemmeno chiedere diritti e salario. Sì, infatti è la libertà. Noi chiediamo per il nostro paese che la gente sia libera, che quando esce un figlio la mattina di casa, la mamma non si è preoccupata che se quel figlio torna o non torna. Oggi in Iran questo non è garantito. La cosa che ti volevo chiedere, negli anni 70-80 il movimento operaio era molto forte in Iran, in realtà pochi sanno che sono stati i comunisti a fare la rivoluzione all'inizio, che poi gli islamisti l'hanno usurpata, no? Grazie a colpa anche noi europei, perché Khomeini veniva dalla Francia, no? E sì. I comunisti non piacevano agli europei e purtroppo hanno appoggiato anche gli islamisti. Oggi il movimento operaio, i movimenti lavoratori in generale, perché può cambiare le cose? Tantissimo, tantissimo. Una delle speranze per noi, se cominciano a fare sciopero in continuo, loro sono molto importanti. La categoria operaia, i sindacati, le fabbriche, sono molto, molto importanti. Se resistono, qualcosa succederà. Ok, ti ringrazio, è anche il nostro augurio. Grazie. E noi, dall'Italia, non faremo mai mancare il sostegno. Infatti, io la cosa che lancio sempre un appello, non dimenticate questo popolo, parlate tutti i giorni come state parlando di altri paesi. Certo. Siamo nati tutti da due uomini. Certo. Siamo tutti fratelli. Questo sì. E non cambia, non ci deve essere diversità serie A, serie B. Il nostro motto è lavoratori di tutto il mondo, unitevi, dunque sì. Ci saremo sempre. Grazie. Ciao, grazie a te. Grazie. برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن، به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی. برای توی کوچه، برای poter ballare per strada, per il timore nell'attimo di un bacio, per mia sorella, per tua sorella, per le nostre sorelle, per ricambiare i cervelli consumati, per la desolazione di essere squattrinato, per la disperazione di avere una vita normale, per il bambino costretto a raccattare nella spazzatura e per i suoi sogni, per questa politica comandata, per quest'area inquinata, per Varials e i suoi alberi consunti, per Piroz e l'eventualità della sua estinzione, per i cani tanto innocenti quanto vietati, per i pianti interrotti, per la ridondante immagine di questo momento, per il volto che sorride, per gli studenti, per il futuro, per questo paradiso forzato. per i geni imprigionati, per i bambini afghani, per tutti questi mai ripetitivi, per tutti questi slogan che risuonano a vuoto, per il crollo delle case di paglia, per la sensazione di tranquillità, per il sole che sorge dopo lunghe notti, per gli psicofarmaci e l'insonnia, per l'uomo, la patria e la rifondazione, per la ragazza che sognava di essere un ragazzo, per la donna, la vita e la libertà. Per la libertà. Per la libertà. Per la libertà. Questa canzone è bellissima, è l'inno della protesta di chi oggi in Iran sta combattendo contro questo regime che io considero fascista. Ecco, chiaramente le parole sono poesia rivoluzionaria. Avete sentito la compagna che ha parlato dei tanti sindacalisti che oggi sono in carcere, della impossibilità di scioperare, perché questo è il problema. Dimentichiamo che la borghesia iraniana sostiene questo regime ed impedisce ai lavoratori di poter esprimersi e di lottare per i salari. Abbiamo sentito come questa rivoluzione nasce anche a causa della crisi economica. Tra i lavoratori c'è una voglia di riscatto, anche di tipo economico, di cambiare il sistema, anche di tipo economico. Oggi l'Iran è un paese capitalista, non ce lo dimentichiamo. Lo dico a tutte quelle persone che guardano, no? I multipolari, che guardano l'Iran, che contro gli Stati Uniti, allora sono favorevoli all'Iran. State sbagliando tutto. Lì c'è un'oppressione verso i lavoratori. Quando un paese opprime i lavoratori è un paese fascista. Quando non permette ai lavoratori di scioperare, di esercitare i propri diritti, di sciopero, di manifestare. Ecco, io vi lascio un'ultima canzone che è delle donne all'università di Teheran. Questa canzone noi la conosciamo benissimo, è una canzone di lotta, si parla della donna, vita e libertà, che è il motto delle rivoluzioni in Iran. Io vi lascio a questa canzone, ci sentiamo alla prossima puntata, compagni. Viva la rivoluzione iraniana, viva la lotta operaia dei lavoratori iraniani. Orgulloso de estar entre el proletariado.